Ciao a tutti, un saluto veloce qui dalla una delle mie due parrocchie, la parrocchia di Virgo Potens. Ho finito da poco la messa e ci tenevo a darvi i miei auguri di Natale, ma soprattutto a dirvi che mi ha colpito tantissimo quello che ha detto stanotte Papa Francesco nella notte di Natale. E ha detto che San Paolo parla della grazia, dice: è apparsa la grazia di Dio nel Natale. Ma perché la chiama grazia? Perché è gratis. L'amore di Dio è incondizionato, è qualcosa che non si può guadagnare, non si può in qualche modo ottenere essendo buoni, essendo bravi. È un regalo, è un dono gratuito che Lui ci fa. E allora noi dobbiamo soltanto accoglierlo e dobbiamo anche diventarne portatori agli altri, perché in un altro brano di Vangelo Gesù dice: ma il sole scalda tutti, il sole illumina tutti. Quando noi pensiamo, sì, io alle persone sorrido, a quelle che mi sorridono, ma pensate un po' se il sole dicesse: io scaldo soltanto quelli che mi ringraziano, o se la pioggia arrivasse soltanto per gli agricoltori. Non sarebbe sole, non sarebbe pioggia. L'amore di Dio è il sole che scalda tutti, buoni e cattivi, e scalda anche noi. L'amore di Dio è pioggia che viene a irrorare, a dare serenità, a dare forza, a dare vigore alla nostra vita. E allora noi dobbiamo accoglierlo e dobbiamo essere come i pastori che vanno ad adorare questo amore gratuito così meraviglioso. Ecco, il mio augurio per questo Natale passa attraverso le parole di Papa Francesco. Accogliamo l'amore di Dio, che è gratis, che non possiamo guadagnarlo, ci è regalato, è un dono che il Signore ci ha fatto e che noi dobbiamo soltanto cogliere. È un frutto sempre maturo. Il suo sorriso, il sorriso di Dio, non smette mai di illuminarci, di darci forza, di darci calore. E anche noi possiamo diventare sorriso di Dio per gli altri. Ma in questo giorno di Natale ci viene così facile sorridere, abbracciare, fare gli auguri. Ma non potrebbe essere ogni giorno Natale? È così difficile, è così bello, non è così difficile. Lasciamoci andare alla gioia del Natale, facciamo che ogni giorno sia Natale. Questo è il mio augurio per tutti voi e per le vostre famiglie, che ogni giorno sia Natale. Andate in pace e vivete ogni giorno come se fosse Natale. Questa è la benedizione che vorrei che arrivasse a tutti voi e a tutte le vostre famiglie. Buon Natale!